Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un Abuso al Giorno, la trasmissione che oramai da oltre un anno e mezzo vi accompagna quotidianamente nei vostri percorsi mattutini a quest'ora oppure in replica alle 20.45. Siamo ancora in tempo per scambiarci gli auguri di buon anno, quindi lo faccio volentieri a tutti i radioascoltatori e agli ospiti che ora presenterò. Ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it e il mio blog si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore su internet o altrimenti robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Oggi ringrazio un radioascoltatore di Ragusa che ci ha mandato una lettera molto interessante che riguarda sicuramente lui, ma riguarda non soltanto, ci scrive, chissà quante persone a Ragusa, ma io oserei dire chissà quante persone in Italia, perché questo radioascoltatore che ora presento ci ha indicato quella che potrebbe essere, ma lo verificheremo con altri ospiti, intesa come una specie di furbizia da parte del comune per lucrare anche piccole somme su casi significativi come quelli che riguardano la tassa sui rifiuti. Però sentiremo ovviamente tutte le campane ed io, per cominciare a farlo, do il buongiorno al nostro radioascoltatore che è Maurizio Minardo. Salve Minardo. Sì, buongiorno. Allora, ci racconta un pochino la furbizia che a suo giudizio il comune di Ragusa avrebbe, come dire, usato ai suoi danni. Sì, molto brevemente. Io ho cambiato residenza, tutto registrato al comune di Ragusa e ricevo la tassa sui rifiuti solidi urbani con tanto di notifica, in quanto il comune manda questa tassa in una residenza che avevo 15 anni fa. E quindi lei ogni volta che ha cambiato residenza, e questo è molto importante per raccontare la nostra storia, ha sempre comunicato il cambio, sì, di residenza, come dovrebbe, sì, fare ciascun cittadino, insomma. Certo, è obbligatorio. Di più, lei dice anche che si è anche recato di persona presso l'ufficio tributi del comune. Sì, ogni volta che si cambia residenza bisogna andare all'ufficio tributi proprio per... io qui di fronte a me... per registrare la cessazione dell'occupazione di dove si abitava prima e registrarsi invece al nuovo indirizzo. Benissimo, ecco, quindi lei ha compiuto tutti i passi che avrebbe dovuto compiere. Stiamo parlando di tasse relative al 2007 e il comune appunto le comunicava l'aggravio delle spese di notifica oltre alla minaccia del fermo amministrativo. Esattamente, sì. C'è da considerare anche un'altra cosa, una nuova mail mandataci da Minardo ci dice: guarda caso, è arrivata anche la tassa sui rifiuti solidi urbani relativa al 2008. L'indirizzo è stato sbianchettato e in controluce però si legge benissimo la mia precedente residenza, come a dire, stava nuovamente per replicarsi l'errore. Non sarà mica la potenza di Radio 24? Io non credo, non siamo così maliziosi, Minardo, anche se a volte in queste cose ci si azzecca, ma per verificarlo io do il buongiorno e il benvenuto all'assessore al bilancio e programmazione dello splendido comune di Ragusa, il dottor Salvatore Roccaro. Buongiorno Roccaro. Buongiorno a voi. Allora, radioascoltatori. Grazie. Allora, c'è malizia in quello che pensa il nostro radioascoltatore o c'è anche una certa dose, diciamo così, di disorganizzazione relativamente a questi avvisi di notifica? Ci dica la sua, assessore. No, guardi, intanto voglio subito specificare che il comune di Ragusa è a posto sotto tutti i punti di vista. L'utente è vero che ha cambiato 3 volte la residenza. Lui è stato residente in Corso Mazzini, a Ibla, dall'1/1/94 al 31/12/95. Poi dall'1/1/96 al 31/12/2006 è stato residente domiciliato in via Pezza. Dall'1/1/2007 in via Spadafora 130A a Ragusa. Noi questi dati ce li abbiamo, io li posso tranquillamente confermare. No, ma lui stesso dice che li avete, quindi non è il problema, sì, averli, il problema è perché arrivano agli indirizzi sbagliati. Sbagliati. Allora io le spiego subito qual è il funzionamento dei nostri uffici. I nostri uffici elaborano i dati e li mandano a una società di Palermo che si chiama Equitalia Spa, che elabora questi dati li manda al concessionario. Quindi io posso garantire 100% per aver fatto delle ricerche personali che il comune di Ragusa ha mandato i dati alla Equitalia SPA e li ha mandati correttamente. Cosa sia successo poi dall'Equitalia SPA al concessionario che sarebbe la Seret, noi questo come comune non lo sappiamo. E allora noi cerchiamo, i dati sono stati inviati in correttamente. Benissimo, allora adesso noi cerchiamo di capirlo, perché lei ha ragione quando dice dal suo punto di vista il comune si è comportato correttamente. Fatto sta che però, e la questione non riguarda solo Ragusa, ripeto, sono migliaia di cittadini che si trovano poi alle prese con queste cose molto fastidiose, perché la minaccia di un fermo amministrativo piuttosto che inseguire una pratica è davvero molto fastidioso. Allora, abbiamo sentito il radioascoltatore, abbiamo ascoltato il comune che chiama in causa il concessionario Seret Sicilia, e ovviamente noi non potevamo non ascoltarlo, ed infatti abbiamo collegato il direttore generale per la Sicilia della Seret, il dottor Antonio Finanze. Buongiorno dottor Finanze. Buongiorno a tutti. Insomma, il suo cognome è già tutto un programma, direi che era proprio geneticamente predisposto, no? Sì, proprio. Allora, la colpa dunque è vostra, è sua personalmente, ha passato un cattivo Natale per questo? No, assolutamente no. Il meccanismo che ha sinteticamente illustrato l'assessore Roccaro è corretto, nel senso che gli enti impositori, nella fattispecie il comune di Ragusa, trasmette ad Equitalia Servizi SPA il ruolo contenente tutti i nominativi dei contribuenti con il loro domicilio fiscale o anagrafico. Equitalia SPA trasforma questo ruolo in un documento informatico e lo ritrasmette al comune per il visto di esecutorietà del ruolo stesso. Il comune dovrebbe controllare se tutti i dati trasmessi nel provvedimento cartaceo o il primo flusso informatico contenente questi dati siano stati correttamente riportati nel ruolo, che poi viene trasmesso a sua volta all'agente per la riscossione. Devo dire che Seret Sicilia, ma qualsiasi altro agente della riscossione, al momento in cui il ruolo gli viene consegnato non entra nel merito del contenuto del ruolo, non va a fare delle verifiche, perché per legge l'agente della riscossione, concessionario era fino a qualche anno fa, fino al 2005, non deve fare altro che notificare al domicilio fiscale, perché la legge prevede questo, comunicato dall'ente impositore. Ecco, quindi dottor Finanze, lei sta dicendo, mi corregga se sbaglio, Lei sta dicendo dunque che avete rimandato questo flusso di... Aspetta. Fino a questo momento noi non siamo entrati nel gioco, il rapporto è fra Comune ed Equitalia Servizi SPA, che è una società di Equitalia SPA, certo, che gestisce la informatizzazione dei ruoli. Okay. Noi agente della riscossione siamo i destinatari di questo documento, che poi viene stampato e quindi prende il nome di avviso di pagamento nella forma bonaria o di cartella di pagamento nella forma coattiva, e notificato o inviato nel primo caso, notificato nel secondo caso al contribuente, limitandoci a consegnare questo documento al domicilio che ci viene indicato nel ruolo. Ecco, ma allora carico e a cura, però così finisco il procedimento. Sa, dottor Finanze, interessa fino ad un certo punto, perché quello che bisognerebbe cercare di capire è com'è possibile che poi si compiano questi errori. Cioè, secondo il suo punto di vista, l'errore chi lo ha commesso e in quale momento della procedura è stato commesso questo errore? E soprattutto perché poi, invece, per il 2008 la questione si è risolta con un colpo di bianchetto. Quindi, dov'è l'errore e chi lo ha commesso? Dottore, l'errore non è sicuramente da parte dell'agente della riscossione, perché come le dicevo poc'anzi abbiamo ricevuto il documento, così come riceviamo migliaia di atti, per essere preciso 2,5 milioni di atti durante il corso dell'anno, e non abbiamo sicuramente il tempo, comunque l'autorizzazione, se così vogliamo, per verificarli tutti. Noi agiamo secondo quelle che sono le norme, cioè il domicilio fiscale, una volta non rinvenuto il contribuente si fa l'accertamento presso l'anagrafe tributaria o presso l'anagrafe di residenza della città. Beh, però qualche cortocircuito deve esserci stato. Io non sto imputando ovviamente la colpa a Seret. Non sto dando la colpa né a Seret né al comune. Però una cosa è indubbia, che un cortocircuito c'è stato, perché mandare a distanza di 15 anni una cartella, un vecchio domicilio, obiettivamente non ha funzionato, insomma, non no? Ha funzionato, qualcosa, ecco, appunto. Allora io tornerei al nostro radioascoltatore per dirle che tipo di insegnamento ha tratto da questa cosa. Tenere gli occhi aperti, suppongo. Ma questo sì, sicuramente, sempre. Ogni cittadino deve salvaguardarsi da quella che è l'istituzione che, invece di servire il cittadino, a volte sembra abusarne. Effettivamente, infatti, io ringrazio ovviamente per i loro interventi tanto il dottor Finanze quanto il dottor Roccaro, assessore al bilancio del Comune di Ragusa. Certamente tutti hanno compiuto bene la procedura che li riguardava, fatto sta che poi alla fine il danno è per il cittadino, è un po' come il medico che opera, l'operazione è perfettamente riuscita ma il paziente poi alla fine muore. Quindi io direi di concludere la trasmissione che ci ha visto anche oggi protagonisti, con Giorgio Matei in regia e Laura Fagin in studio, e Roberto Galullo vi dà ovviamente appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.